Attenzione! Il regno è stato creato 3 miliardi di anni fa, quindi non 3 miliardi di anni dopo la nascita dell'universo.